Mi sto cercando dentro al tunnel degli specchi, dove i riflessi confondono il mio sguardo, dove il mio volto sta diventando un altro, le sensazioni si scompongono in molteplici e invisibili frammenti, laddove la realtà è deforme, verità non c'è, perdo il controllo del mio corpo e dei suoi movimenti, cerco alla cieca una percezione di me, l'identità è travolta dallo scoppio degli eventi, diversi nomi danno attribuzione di più ruoli, io sono me stesso ed allo stesso tempo il mio contrario, tra le mie vite troppo spesse, troppo ampio il divario, che poi mi ritrovo fuori posto in quante situazioni, coltivo dubbi come sognatore le illusioni, perché i vostri assiomi sono scarpe troppo strette, le mie pulsioni danno voce a più contraddizioni, al tunnel degli specchi, coerenza qui non serve, benvenuto dentro al tunnel degli specchi, trovi flussi di coscienza, nuovi mondi in cui ti perdi, non ne puoi stare senza, resta a specchiarmi nel libero arbitrio di vivere senza, nella contraddizione che senza non vivo, allo specchio la valutazione degli errori porta errori di valutazione di riflesso, ho sangue freddo e non vuol dire che sono calmo, solo che baciando Milano e su asfalto di vene di ghiaccio, la mia coscienza è collegata quando parlo, infatti prima che tuono mi precede tipo il lampo, respiro per darle vigore, per spezzare le catene dei vincoli tra male e bene, vene ardere sul mio cuore, un'embolia che preme per non farle vedere, la malattia di aver 20 anni e seguire ancora chimere, morde i polmoni, strezza il cuore da costa in gabbia, secca in realtà che secca labbra, capelli con lacrime, in cui coscienza è rannicchiata come feti nel plasma, torna all'inizio la vita dell'uomo allo stato di larva, benvenuto dentro al tunnel degli specchi, trovi i flussi di coscienza, nuovi mondi in cui ti perdi, non ne puoi stare senza, io sto al mondo con la sensazione di ideali calpestati, nascondo tali sui piedi fatti dai sogni infranti, quando mi sento schiacciato da un destino spietato, unisco col filo spinato parte staccata a sé stanti, la percezione si dilata, si scioglie lo specchio, l'orientamento è da appannaggio dell'attribuzione di valore materiale al senso, per valutare il senso morale di ogni valore, è l'agonia di chi ha perduto le sue fondamenta, si è scordato l'anima e ora piange la sua assenza, vedo il mio volto scomposto come Picasso ed ammetto che perdere me stesso spesso mi spaventa, io primo attore in questo teatro dell'assurdo indosso mille maschere a seconda del copione, e quando calerà si pario terminando la finzione, cercherò le mie risposte ma ne denuncerò il furto, benvenuto dentro ai tunnel degli specchi, trovi i flussi di coscienza, nuovi mondi in cui ti perdi, non ne puoi stare senza, non ne puoi stare senza.